Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Poi arriva Cruciani, il quale non vive per sé, e si interroga dove tu sei finito, dove sei andato. Tu sei andato a vedere ville, case, palazzi, e lui è escluso, lui è l'escluso. L'escluso, l'escluso, l'escluso, l'escluso, l'escluso, l'escluso, l'escluso, l'escluso. Un altro debosciato, greco. Ma avete mai visto come si muove quello in quella trasmissione con il mio canone? Avete visto che studio enorme, ha uno studio apocalittico, si muove come una troia. E poi cammina anche male, ha una postura orribile. Nel giro di 2 anni arriveremo a 7 milioni di maomettani, sconto me lo sono fatto! Si prendono 5 mogli a teste, 4 figli a teste, 5 per 4, mi sembra che faccia 24 cada uno. Ma la Bonino mi interdetta, la Bonino mi sembra la sorella maggiore di quella Nannini che mi sta sul cazzo come una corda. Parenzo! Naturalmente. Lo so che vuoi sapere di Sgarbi, però su Sgarbi daremo dopo. Sì, perché io ho assoldato un investigatore privato su questa cosa e nel corso della diretta darò dei dettagli su quello che ho scoperto, perché ho assoldato il professor Giuseppe Gelsomino, che si occupò già del caso, sì, Cogne. Assolutamente. E abbiamo delle prove importanti, cioè abbiamo delle cose, delle rivelazioni che oserei dire clamorose, cari radioascoltatori, cari miserabili, cari amici della maggioranza silenziosa, su questa vicenda di Sgarbi, dell'esclusione di Cruciani. Insomma, abbiamo tante cose da raccontarvi. Ho le prove di Gelsomino, ha fatto dei rilievi e abbiamo tutto. Ma non c'è stata nessuna esclusione, me ne sono andato da solo. No, cioè lui ha chiuso la porta della camera con Malena e un'altra ragazza di cui non rivelerò il nome. E io me ne sono andato, ma non volevo entrare in quella stanza putrida, in quella stanza nauseabonda. A me risulta che sei rimasto in una scena abbastanza agghiacciante, con delle mutande, tutto sporco, eccetera, e guardavi dalla serratura. Questo mi ha detto il professor Gelsomino. Sì, no, no. Così. Ma cazzo di così. Che rilevazione ha fatto Gelsomino? Ha fatto delle rilevazioni, perché con Luminol, ad esempio. Ma è lo stesso tue... che si era inventato un altro assassino per Cogne, che non esisteva. No, questo non c'entra lui. Ma comunque, il professore mi ha fatto delle rilevazioni. Rilevazioni, ci sono proprio delle documenti scientifici, delle prove, vabbè. Tu eri in mutande, in boxer, peraltro anche sporchi, professore, e dal buco della serratura guardavi e bussavi dicendo aprite, voglio fare anch'io, e guardavi dalla serratura. La cosa è durata un paio d'ore, abbiamo delle foto, abbiamo delle prove, che poi faremo anche una conferenza stampa e eseguiremo in corso di dibattimento. Tutto falso come al solito, tutto falso. Ragazzi, però la cosa incredibile è che la politica italiana improvvisamente scopre il fascismo. No, cioè improvvisamente la politica italiana agita lo spauracchio dei fascisti. No, un signore, un bagnino a Chioggia, da tempo ha dei manifesti, dei cartelli in cui inneggia al fascismo, inneggia al Duce, cazzi suoi, puro folklore. Come ci sono un sacco di bar. Io ricordo quando ero ragazzo e studiavo alla biblioteca di Via Caetani a Roma, c'era un bar dietro Botteghe Oscure, dove c'era un signore molto simpatico con tutti i simboli del comunismo. Lo conosci anche tu quel bar là? Sì, certo, Davezio. Esatto, tutte le immagini. Andavo molto Stalin, spesso, ma non è un reato quello. Stalin, anzi, Mao, eccetera. Nessun non reato c'è quello. Alcuna differenza. Ma Stalin, come c'è differenza? E Mao, assassini più di Mussolini. Ma non rompete c'entra? I coglioni, è puro ma folklore. Adesso vogliono togliere persino la licenza Davezio, a questo signore. Un'istituzione, ma Davezio, lascia perdere, una adesso grande una roba istituzione. Vogliono togliere anche la concessione a questo poveraccio. Certo, questo qua, ha già violato la legge. Ma smettila. Ha violato la legge. Sei contro il lavoro. Vuoi togliere il lavoro a quel poveraccio, no, di Chioggia? Devi vergognare se questo, di questa cosa. Se questo bagnino, non so chi sia, per guadagnare due denari e farsi pubblicità gratuita, ha usato l'effigie del Duce. Se qualora io fossi fascista, e non lo sono, mi sentirei offeso, perché dice questo per far due lire fa lo stabilimento fascista. Ma non è quello, se invece, quindi è grave. Se invece ci crede davvero, beh, amico mio, è un poveraccio questo qui che deve usare il fascismo. Ma perché quello che invece mette la statua di Stalin, che cos'è? Quello che mette la statua di Stalin. A proposito, siccome vogliono fare una legge contro i cimeli fascisti, il signor Fiano, eccetera, certo, persona che io stimo pure, il signor Fiano, anche un bravo politico, secondo me, non è uno che ruba niente, già basta quello. Allora, ti dico una cosa, voglio segnalare, faccio una specie di auto, come si dice? Autodenuncia. A casa posseggo, no, ma sentite bene, a casa posseggo un busto di Hitler in legno, due di Mussolini, un paio di bottiglie di vino con un'effigie, una di Hitler e un'altra di Mussolini, una pasta. Come sapete, a forma di piccolo fascio, a forma anche di, che cazzo era l'altra cosa, me la sono scordata. Però c'ho anche un poster di Stalin, due statue di Mao e una è un busto di Lenin. Che facciamo? Che vogliamo fare? Vogliamo intervenire con la polizia? Vogliamo intervenire con la legge? Dai, comunque sentiamo questo Scarpa, dai. Scarpa, mettetemi tutto Scarpa, che è il bagnino di Chioggia, che adesso è sotto indagine. È sotto indagine, erano anni che esponeva quelle cose. Gli vogliono togliere la licenza. Questa deve essere una grande battaglia di libertà, una grandissima battaglia di libertà. Libertà di espressione, libertà di pensiero, anche per i fascisti, anche per i nazisti. L'Italia deve essere come l'America, dove c'è il Ku Klux Klan e si possono esprimere. Sei un fenomeno folcloristico. Andiamo, contro Parenzo e contro Fiano, via. Ma quale me ne frego, vado avanti per la mia strada. Ordine, disciplina, pulizia. Io non sono né di destra né di sinistra. Io della legge italiana, sinceramente parlando, non ho paura, perché male non fare, paura non avere. Di conseguenza, di quello che può pensare qualche persona che non gli piacciono le mie scritte, le mie cose, a lui rispondo, me ne frego, e vai da un'altra spiaggia che è piena di altre spiagge. Allora ragazzi, a un certo punto lui si mette ad arringare, adesso non so di quanto tempo fa sia questo audio, è un audio, poveretto. Possiamo dircelo che è un poveretto. No, ma perché è un poveretto? È un provocatore. Ma chi se ne frega, non è un provocatore, adesso, no, queste qua sono niente, audio di oggi, uno... questi sono audio di oggi, di ieri. Ti faccio sentire quello che lui diceva alla folla, che ovviamente è un po' più pesante. A un certo punto si mette ad arringare i bagnanti che ha lì nel Lido, senti. Ma arrestatelo, ma mettetelo in ospedale. Arrestate. A me la gente maleducata mi fa schifo. A me la gente sporca mi fa schifo. A me la democrazia mi fa schifo. Io sono totalmente antidemocratico e sono per il regime. Ma non potendolo esercitare fuori da casa mia, lo esercito a casa mia. Ragazzi, è chiaro che questo qua la pensa in questo modo, ma dopodiché ci deve essere libertà pure per un tizio di dire che è contro la democrazia, la forza della democrazia. Sì, ma lascia perdere, le leggi sono fatte ma per essere cambiate. Ma non puoi lasciar perdere, cambiale. Sì, ma ho capito, infatti bisognerebbe cambiarlo, perché basta con questa buffonata. Inneggiare al fascismo è per fortuna, ma sai che in Germania sono ancora più duri di noi. Ma non me ne frega niente, se uno fa l'elogio di Hitler, c'è il carcere in Germania, è un paese civile, soltanto noi difendiamo questi quattro stronzi. Ma non è vero, chiedo scusa, ma non riuscirei ad usare altro termine. E l'America, l'America è un grande paese che infatti non ha conosciuto la dittatura, perché è un grande paese come l'Inghilterra. Comunque, sono dei grandi anche paesi liberali che non hanno mai conosciuto la dittatura. Fermo, io sono per lo sterminio dei tossici, dice, come il presidente delle Filippine. Quindi sempre questo Scarpa. Il presidente delle Filippine, ma cosa c'è del presidente delle Filippine? No, lui dice sono. Ma sì, come? Ma cosa c'entra? Ma vada anche lui in Filippine, lì, ma chi se ne frega? Ecco, apra un bello stabilimento in quel paese di Filippini. Infatti, i Filippini si rompono talmente tanto i coglioni che quelli intelligenti vengono in Italia. Ma chi è che va nelle Filippine? Ecco, vai. Il fascista di Chioggia, vada nelle Filippine. Cosa c'è nelle Filippine? Dimmi cosa c'è, sarà del riso. Cosa c'è nelle Filippine? No, vabbè, vada nelle Filippine. Vada nelle Filippine, il fascista di Chioggia. Ottimo, posto per lui. Voi sapete che io sono per lo sterminio dei tossici. Sterminio totale. Di conseguenza penso che qui è meglio che girino molto, molto all'anno. Molto. cosa incredibile è che solamente dopo l'intervento e l'articolo della Repubblica si è mosso il prefetto, si è mosso il sindaco. Cioè, questi qua, per tutti, meglio questa roba qua era una roba, ma no, ma era una roba ininfluente. Chi se ne frega? Chi, se ti danno fastidio quelle scritte, vai da un'altra parte, no, altrimenti è puro folklore. Ma smetti, dai, ma allora vuoi abbattere i monumenti a Roma che inneggiano il fascismo? Assolutamente cioè, no. Allora, assolutamente ma come no? È uguale, no, dai, non abbatto comunque i monumenti a Roma, tutt'altro, anzi. Allora, assolutamente i partigiani Lampi, che esiste ancora, che dobbiamo fare, di Chioggia, dice che bisogna revocare la concessione. Cioè, questi signori che di solito dovrebbero parlare di lavoro anche, no? La sinistra, eccetera, i valori vogliono della Costituzione, togliere il lavoro a questo signore che sarà un po' bizzarro, sarà un po' folcloristico, sarà un po' bizzarro, sarà un elemento un po' come dire sui generis, no, forse anche così un po' fascista. Lasciatelo, ma chi se ne frega ancora, lasciatelo aperto ancora una settimana, aspettiamo che le masse arrivino lì e poi facciamo masse, una grande retata, una retata, così li ma schediamo. Guarda, sei veramente uno, il peggiore degli antidemocratici, sei veramente il peggiore degli antidemocratici. Cioè, vuoi proibire a questo di lavorare, proibire a questo sant'uomo di lavorare, il quale ha avuto, come dire, anche il coraggio di esporre le proprie idee. A me non me ne frega niente, io aborro sia il fascismo che il nazismo e sia il comunismo, uguale, allo stesso modo, per cui non me ne frega un cazzo di reti di queste. Questo però ha il diritto di esprimerle, deve avere il diritto di esprimerle, chiaro? Senza che qualcuno gli rompa i coglioni. Però vedi, ad esempio, anche la mia Filippina mi scrive in diretta: noi non vogliamo fascisti in Filippina. Vedi che lo scrive anche lui, la mia Filippina. Dai, fammi sentire questo veronese, il capo dei partigiani di Chioggia. Ma dai, su, basta. Quindi noi chiediamo la revoca della concessione demaniale e l'intervento della prefettura e della pubblica sicurezza, pronte a far rispettare la legge Mancino e la Costituzione, che sono leggi dello Stato. A parte che ci vuole subito una domanda a questo tizio, ma l'hai scoperto adesso che questo qua è così? Cioè, l'hai scoperto adesso? Cosa fai tutto il giorno, signore dell'Ampi di Chioggia? C'è un pericoloso fascista accanto a te a Chioggia e non te ne sei accorto fino adesso? Cosa hai fatto? Hai dormito? Oppure te ne fottevi? Probabilmente te ne fottevi, oppure non ti sono arrivate segnalazioni? Ma basta con questa storia qua. Veramente la cosa ridicola è che la politica italiana oggi si occupa di questa cosa qua, dei cimeli fascisti. Io voglio autodenunciarmi, ho un sacco di cimeli io a casa, insieme a cimeli del comunismo. Che cosa fa? Che cosa succede? È impossibile esporli. No, ora domani ti porto una statua di Hitler in trasmissione, enorme, qua davanti, di Hitler. È folklore, basta, è folklore. No, non mi piace così. A casa tua tu puoi tenere quello che ti pare. Qui stiamo parlando di uno stabilimento pubblico, di una concessione dello Stato. Ma è una concessione, ma lo stabilimento, è libero territorio fascista Chioggia quello. Dai, fermi, ma là, fermi, dai, un attimo, ma possono fermo garrire degli striscioni, ma delle che non c'è nessuno striscione, una scritta, una... ma che garrire, ma che, dai, siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Luciani, ma chi ti scopa te? Che schifo, non ti lavi. Siamo veramente al top. Bah, Parenzo, bah. Non c'è da dire bah. Bah. A proposito, ti voglio segnalare che c'è un tizio di Forza Nuova di Verona. Questo sì, appartenente ad una forza politica, Forza Nuova di Verona. Attenti, no, ma no, ma è un'idea, una cosa che è uscita. Che presentando, c'era una festa della curva del Verona, che è notoriamente una curva molto di destra, no? Questo tizio che si chiama Castellini, che è anche il coordinatore di Forza Nuova nel Nord Italia. Senti che cosa dice. Questo effettivamente è anche abbastanza. Però chi se ne frega, capito? Abbiamo il numero, cioè, di questo è un qui coglione totale questo qua. Certo che c'è il numero. Ma non, tu abbiamo sempre i numeri. Forniscilo subito, no, forniscilo ma lo sanno, già è uscito, è già uscito dappertutto. Senti, Castellini, che è anche un tifoso del Verona, immagino, che è il coordinatore di Forza Nuova Verona. Senti come presenta al pubblico la festa della propria squadra. Senti. Ma alla fine, io ve lo dico, chi ha permesso questa serata? Chi ha pagato tutto? Chi ha fatto da garante a un nome? Adolf Hitler! Capisci, no? Ma qui, capisci? Ma qui siamo di, ma qui ci vorrebbe il fermo immediato, però scusami, Ma non lo so, facessero quello che vogliono. Io mi metto a ridere, puro folklore. No, cioè, trattasi ridere di puro folklore. Beh, questa è l'unica lì differenza, puoi ridere, che ma esprime, lui non ride per niente. L'unica, a parte che ride pure lui, l'unica differenza è che questo qua appartiene ad una forza politica vera e propria, no, cioè questo, il coordinatore. Appartiene questo è uscito da un reparto psichiatrico che era chiuso a quattro mandate, era legato a un letto e sottoposto a terapia intensiva di farmaci. A un certo punto si è svegliato, è uscito e ha detto questa bischerata. Però adesso, oltre a ridere e sorridere, per cortesia, appello agli amici di Verona, appello al questore di Verona, che so che ascolta sempre questa trasmissione, appello al prefetto di Verona, intervenite, basta una volante, basta una, andate lì, prendete. Ma credo una che casa. Siamo già in azione. Ma no, benissimo, ma allora chi un se applauso ne frega? Alle forze dell'ordine che stanno già intervenendo. Buttate via la chiave in questo caso, buttatela via. Ma dai. Allora, la cosa incredibile è che la sinistra. Anzi, mandatelo a pulire i campi di prima accoglienza dei profughi. A proposito di profughi, in realtà sono molto pochi i profughi. A proposito di migranti, caro Parenzo, Renzi dice che non possiamo accogliere tutti e aiutarli a casa loro, è principio sacrosanto. L'ho anche ripetuto durante il weekend, Renzi. Cioè, ragazzi, io ripeto ancora una volta: è inutile che vi agitate tanto. La gente poi sceglie l'originale. Se devi scegliere uno contro i migranti che dice accogliamoli a casa loro, adesso tutti quanti dicono questa cosa: aiutiamoli in Africa, dove si sono fottuti i soldi per una vita, dove i soldi finiscono alla cooperazione, dove i soldi finiscono nelle mani dei dittatori, dove nessuno ha mai fatto un cazzo. Adesso che cos'è che spunta questa cosa? Aiutiamoli in Africa, che è una cosa più razzista, molto più razzista di quello che abbiamo sentito prima. Aiutiamoli in Africa. No, vuol dire fare lì degli investimenti, portare lì gli imprenditori, creare delle infrastrutture. Ma chi vi crede? Tutta la politica si è convertita a questa puttanata. Ma no, ma questo si è sempre detto. Questa è una cosa anche logica, di portare lì gli imprenditori e costruire delle infrastrutture lì, ma questo è evidente, no? Fammi sentire dai. Fammi sentire Renzi. Aiutarli a casa loro è un principio sacrosanto. Vuol dire smettere di far venire tutti qua, perché noi non possiamo accoglierli tutti. Va bene, Mauro da Padova, vai Mauro, vai. Mauro. Ciao ragazzi, ciao. Dimmi. Ascolta, io volevo intervenire per Gianni Scarpa. Io frequento Gianni quello Scarpa, stabilimento, esatto, che non è un bagnino, ma è il titolare. Sì, io ho detto il bagnino per dire chiaramente il proprietario, il gestore del bagno, sì. È 20 anni che frequento quello stabilimento. Io non sono una persona di estrema destra. Da quanto destra. Tempo ci sono quelle scritte? Ci sono da sempre. Sì. Mi hanno detto che l'anno scorso però non c'era nessun riferimento a Mussolini così esplicito, a Mussolini. Ma che ha detto? C'erano i manganelli appesi, però ma non significa nulla. Ma ragazzi, guarda, ma c'è anche un ristoratore che abbiamo intervistato. Ma che cos'è, un Luna Park o è una spiaggia quella roba lì? Cioè, se è un Luna Park, la Galleria degli Orrori, Madame Tussaud, dite quello che vi pare, va bene. Un Parenzo, un secondo solo, guarda, quella spiaggia lì è conosciutissima a Padova, a Chioggia e a Sottomarina, perché Sottomarina... La conoscono tutti, quindi anche i cari sono signori dell'amministrazione ma comunale Padova, che non sanno. No, Padova perché è frequentata Chioggia, da molte persone. Da molti io non ci vado, manco vabbè, morto, allora, non sono mai allora, andato. Anzi, vorrei dire, no, e tutti quanti, chi la conosce mai nota a Padova, è notissima, amministrazione di ma Chioggia. Chi sa in quale ambiente la, è nota, cioè, la cosa è nota perché vi dico, è 20 anni che è così, ma poi vi dico un'altra cosa. Allora, i cartelli, allora Gianni non è che dice una cosa non vera, quando fa riferimento a qui è casa mia, allora lui è proprietario praticamente fino alla sommità, Mauro, però, dell'arenile. Sì, ma lasciamo perdere queste cose. Uno non è che deve dire no, io sono proprietario. Chiaramente quello ha delle idee ben chiare. Quello poi dice di non essere fascista. Quello là ammira il fascismo. Punto. Le cose bisogna dirle, però non è che uno può dire no, io non voto né destra né sinistra, non sono fascista. Quello è fascista. Punto e basta. Non è uno che si può tirare indietro adesso. Ma no, perché ho sentito oggi che diceva no. Però io non sono fascista, io sono per l'ordine, la disciplina. Abbiamo sentito i discorsi, abbiamo letto le immagini, abbiamo visto le fotografie, ci sono foto di Mussolini. Sto povero Cristo ieri è stato massacrato, certo. Sentito male, è stato massacrato. Ma cioè, è la spiaggia più libera. Adesso si che fa diventare un martire il fascista che ha fatto i soldi fino a 2 ore fa con l'invocazione al fascismo. Quando dice folklore, Parenzo, ha non trasformatelo in un martire, su, non trasformatelo in un martire. Non ha mai fatto bene a nessuno, guarda, ha fatto male a nessuno, ti dico, quando c'è quello che vende il cocco di qua, le persone italiane naturalmente, sì, dice allora... ragazzi comprate, date una mano a sta persona che corre su... è una persona buona anche, sì, veramente. Però, sì, buona, certo. però Mauro, adesso questo qua non anche c'entra, anche Mussolini avrà detto buongiorno a qualcuno questo la mattina, non c'entra sicuramente. Niente oggettivamente, ha delle idee, è una persona buona, Mauro non è un picchiatore che commette dei reati, altrimenti già sarebbe intervenuto la forza pubblica, che cazzo c'entra questo, perché non è che la giustificazione non è uno buono, non c'entra assolutamente nulla da questo punto di vista. compagno lui invece da neonazisti, ma figuriamoci, questo non ci credo nemmeno io. Lui però invece di ritirarsi adesso, di dire no, ma io non sono questo, io non ho fatto, forse dovrebbe avere le palle per andare fino in fondo, per dire sì, io la penso così, non mi potete proibire di invece... avere i manganelli attaccati, non potete mandarmi la Digos perché non commetto nessun reato e bisogna battersi per la libertà di espressione. Invece probabilmente le palle non ce le ha. Ma come no? C'entra anche la libertà di espressione. Senti, la libertà di espressione si ferma laddove viene commesso un reato. Dovevano arrestare allora il 50% ogni tanto di persone che intervengono qua in una trasmissione che si dichiarano fascisti, secondo questa tua idea, perché lo dicono pubblicamente. Siccome questo non avviene, di che parliamo? Dai, su, non è che puoi colpire così a muzzo, come dicono in Sicilia. Ma intanto colpirne uno per educarne 100, perché voglio vedere chi altro. Fermi tutti. A proposito, io avevo fatto quella discussione con Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. Eh già. Sembrava la fine del mondo. Sono ancora qua. Ok. Ma sono ancora qua. E io sono ancora qua. Eh già. Io sono ancora qua. Già bastardo che siete. Cazzo. Vai. Spada di fuoco. La zanzara. Massaggio. Cruciani, maratona di beach volley a Monopoli, squadra in semifinale, nome La Zanzara. Vado lì e chiedo: ma perché avete scelto questo nome? Ed è subito: amico mio! Cruciani, quando vuoi. Per quanto riguarda l'intervento dell'ascoltatore di ieri, che diceva siete troppo volgari, di qua di là, amico mio, la parola puttana, stronzo, vaffanculo, merda, eccetera eccetera, alla zanzara sono state sdoganate, amico mio. Se non ti va bene, cambia stazione, non ci rompere i coglioni. Qua noi vogliamo che la gente combatta nell'arena della zanzara, che si manda a fanculo, hai capito, amico mio? La zanzara è questa, è sangue e merda! Dai, su! David, il popolo è con me, il popolo è con me, i politici sono con te, il popolo è per la libertà di espressione, sempre, e anche uno di sinistra come te, dovrebbe capirlo su questa storia di Chioggia, perché hanno scoperto adesso che c'è qualcuno che fa finta o è addirittura fascista e che espone delle cose, ma chi se ne frega, ragazzi? Autoconfessione, ho un sacco di busti di Mussolini, pazzi. Il vino con l'immagine di Hitler, domani lo porto qui, lo espongo. Mi arrestassero, mi denunciassero. A casa tua puoi avere tutto. No, lo espongo alla radio, l'ho già fatto più volte. Ma a casa tua puoi avere tutto il cattivo gusto che vuoi. Basta per me. Con puoi queste avere leggi assurde. Anche, puoi avere anche delle colonne barocche, ioniche, doriche, corinzie. Il Parlamento si dovrebbe occupare non... di cose più serie, il Parlamento, non di queste puttanate. Dai, su, il Parlamento adesso con Fiano, perché Fiano è una brava persona, lo incontro ogni tanto a Milano, è una bravissima persona, non lo metto in dubbio, sicuramente non ruba, è un politico, magari posso essere in disaccordo su qualche cosa, mi pare un po' troppo appassionato, per carità, anche per questioni familiari, lo sappiamo, di questa storia qua. Che cosa che dice? Beh sì, credo che abbia avuto, no? Credo dei parenti, no? Come dei parenti? Il padre è stato il campo di concentramento. Che c'entra quello? Ho detto, è sicuramente, non è una cosa negativa che ho detto, sicuramente ha una parte, no? Un coinvolgimento familiare in questa vicenda. Non è una cosa negativa. Ho detto, è spinto anche dal suo coinvolgimento familiare. No, ma deve capire, che esporre una bandiera del comunismo che nel mondo ha significato milioni di morti, è esatta, e non mi fare la discussione adesso l'Italia, l'Italia è diverso, perché non guardare quando sei, no, sei interna, guardi al mondo solo quando ti conviene. No, ma scusa, guardi, ma che sei, io... uno dell'Europa, parli dell'Europa e del mondo solo quando ti cosa conviene. C'entra? Ma io penso alla Germania, dove per molto molto meno ci sono pene molto più severe. Cosa c'entra? La Germania è un paese civilissimo. Come sai, ci sono partiti quasi neonazisti in Germania. Non è possibile fare alcun riferimento al nazismo, quello, ma è totalmente ma sì, ma i simboli sono fissati sui simboli. Allora, noi abbiamo un caro amico, però Parenzo, ti devi mettere d'accordo un po' con te stesso. Abbiamo una persona che conosciamo, il quale di mestiere fa oltre, lo so, è un amico, si chiama Jonathan Targetti, il quale Targetti, certo. Assolutamente lui Prato, insieme Prato, insieme al padre, Prato, cioè. Insieme al padre sono ma grandi ascoltatori della Zanzara. No, ma perché io non tu poi contro perché quello, tu poi te la pigli anzi. Con quello di Chioggia. Poi però quando sono due cose diverse. Uno quelli vanno in Germania, vanno in Germania ad acquistare divise dell'SS e le portano in Italia. Mettili in galera, ma sono allora, dei cimeli storici. Galera. Ma no, ma quello non me ne frega nulla. Va benissimo. Targetti può continuare serenamente a fare il suo lavoro. Il problema è che questo miserabile di Chioggia, questo poveretto, questo da internare in una struttura adeguata, ma in dai. Realtà non è che fa il commercio di gagliardetti, di robe, simboli, robe storiche, eccetera. Ha detto che il suo stabilimento è uno stabilimento dove vige il fascismo. Ma e quella roba lì non si può fare. Dai, se poi hai sentito pensi, l'ascoltatore di prima che frequenta quello stabilimento. Da anni, ma cosa dai, me ne frega? Ma cosa è la Repubblica degli Ascoltatori? Cosa me ne frega? Ma certo, questa è la Repubblica degli Ascoltatori. Quello che sostengono gli ascoltatori non me ne frega niente. Ma te lo vuoi mettere in testa? Per me, l'ascoltatore che telefona, quello che ascolta, mi piace moltissimo. Perché, ad esempio, è pieno di ascoltatrici. Ad esempio, della mattina vanno a camminare. No, te lo voglio dire. È pieno di ascoltatrici. Ad esempio, la mattina mi chiama. Non posso andare a camminare il lunedì perché la domenica non c'è la Zanzara e quindi non vanno a camminare. Esatto. Quindi, gli ascoltatori hanno il mio massimo rispetto. Adoro gli ascoltatori, li amo quelli che ascoltano questa trasmissione. Meritano tutto il mio disprezzo assoluto. Quelli che telefonano invece. Ma quelli? No, ma ce ne totale. Sono un sacco in onda, adesso ti passaggio. No, passagra. Ma hanno. Vuoi sapere che volete, di più? Regia, che mi dovete rompere il cazzo? Il mio fermo, disprezzo fermo totale. Che c'è, regia? David? Volevo dire che io sono Giovanni di Foggia, sono il fascista. Fascista non è un reato. Allora ragazzi, qualche altra notizia per le vostre bocche, per le vostre orecchie, per le vostre fauci. Per le vostre fauci, nel fine settimana che cosa abbiamo assistito? Fermi tutti, Carlo da Roma, Antonio da Catania, Maurizio da Vicenza, Stefano da Padova, Mirko da Roma e altri ancora che ti vogliono azzannare, credo Parenzo, da quello che leggo, ti vogliono azzannare. Nel fine settimana si è svolta una meravigliosa manifestazione animalista nel caldo, nella calura di Roma. Io godevo questi qua animalisti della Brambilla sotto i 40 gradi di Roma. La Brambilla dice che è stata una giornata storica, il movimento animalista renderà l'Italia un paese migliore, va bene, quello che vogliamo. A un certo punto è intervenuto uno, il quale ha detto fa un discorso sulla libertà degli animali e la folla dice animali liberi, cioè questi qua, capito? Pensano che bisogna liberare gli animali, ma da che cosa bisogna liberarli? Amici miei, da cosa? Da cosa bisogna liberare gli animali? Che se si liberassero tutti gli animali saremmo tutti morti nel giro di pochi anni. Liberare gli animali, che vuol dire? La libertà è un'altra cosa, battete le cose più importanti per i paesi ancora sotto dittatura. Questi pensano alla libertà degli animali. Sentiamo. Noi oggi siamo qui per combattere l'indifferenza degli italiani. Siamo qui perché dobbiamo avere il coraggio di fare grandi sogni, grandi progetti, perché soltanto i grandi progetti hanno la magia di scaldare il cuore degli uomini. Noi siamo qui per chiedere a questo Parlamento inesistente sugli animali di cambiare le leggi. Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! Ma questi qua sono da internare. Cioè questi che l'8 di luglio, 40 gradi a Roma, vai a gridare animali liberi, e come quelli che dicono Hitler ci ha guidato in questa roba. Cioè è una follia, capito? Questa è follia pura. Questa è follia, Parenzo, questi sono pazzi. Dicono animali liberi a 40 gradi. Forse sono i 40 gradi che li fanno gridare così. Animali liberi, tu muto. Probabile. E quello zitto, e quello zitto, probabile. E Parenzo zitto. Questo è un argomento del quale non posso dirti, non mi interessa. cioè non vorrei dirtelo, però, scusa, Freddy, non me ne frega che, niente, lo sai che Vassallo, come gli animalismo ti ha sempre interessato la questione dell'animalismo, Vassallo, no, zero, zero. Il mitologico Vassallo, che ha combattuto con noi il nazi vegano, quello di Biella, poi sotto accusa per stalking la fidanzata. Io non ho passione per tutta questa gente qua, però senti, lotteremo finché i mangiacadaveri non saranno morti, cioè noi che mangiamo la carne, no, lotteremo finché i mangiacadaveri non saranno morti. Volevo proprio dirti che oggi a colazione, non si dice pranzo, sì, a colazione, mi sono mangiato una tagliata di filetto, eccezionale. Come si chiama qui? Flaminia Est. Forte. Puzza di cosa? Cadavere. Comunque queste cose esistono per colpa vostra che volete mangiare cadaveri. Quindi fino a che un mangiacadaveri sarà vivo, noi saremo lì a lottarvi a rompere i coglioni, fino a che non sarete morti. Tiè, Vassallo, tiè. Poi addirittura spinge un bambino di 8 anni a gridare, a protestare perché si fermano questi matti. Non era di servizio, questi animalisti non era di servizio, e fanno casino perché vedono un cinghiale appeso, una testa di cinghiale appesa dove vendono il prosciutto, cosa abbastanza normale, insomma. Vabbè. Ah, c'è anche Gervaso, però te lo faccio sentire dopo, professor Gervaso. Per far durare un matrimonio bisogna tradire la moglie. La bigamia. Ah, Gervaso, come sta Gervaso? Perché ha sofferto in una lunga depressione, poverino. Stefano da Padova, vai, Stefano. Ciao, pronto? Dimmi, Stefano, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, sono stato invitato. Allora, io frequento la spesa di Scarpa da Padova. Ma c'è una specie di ma no, di migrazione da Padova a Chioggia. Ma Padova vanno al Lido di Venezia, ma quale Chioggia? Vabbè, allora niente, ascolta, sì, ma non sono tutti ricchi come te. C'è gente che va pure a Chioggia perché magari si spende poco alle dune, no? Ma niente, ma sì, a Chioggia c'è un amico. C'è un mio amico carissimo che ha la barca ormeggiata a Chioggia, poi va nella laguna a fare. Ma cosa c'è? Ma no, comunque uno può andare a Chioggia, non me ne frega niente a me nei fatti. Si mangia del pesce ottimo a Chioggia, sono andato mille volte, la Riviera del Brenta, bellissimo. Vabbè, allora Stefano, c'è il museo della scarpa, con la scarpa di Andy Warhol. Quello che a me dà fastidio è questo fascista a cui va chiuso lo stabilimento. Fine, ma ragazzi, no, miei. Sei veramente quello che vuoi. Dimmi Stefano, dimmi. Ragazzi, allora sto qua, ha aperto Punta Canna, se vedete nell'immagine di internet si chiama Punta Canna con due N. Allora? Diciamo che lui è una buona persona, tranquillo, un buon accione, che usa un po' queste cosette per attirare un po' il clientela, no? Allora è un furbone e basta. Prego? E allora è un povero furbo e basta, è un furbetto che per fare un po' di marketing. Lascialo lì tranquillo, non fa del male a nessuno. Ma lascio vivere cosa? Uno che inneggia al fascismo, ma lascialo vivere. Lascia perdere, dai. C'è una legge, ragazzi. Ma ha tutto il diritto di esprimere le sue idee, dai. Luciano, fra l'altro, quando lui organizza le feste in spiaggia, ti posso garantire che è pieno di gnocca. Piano di gnocca, quello è buono. Quello è buono. Questo è sempre buono, amico mio. Fermi là. Fermi. Non c'è bisogno, effettivamente, di andare allo stabilimento di oggi. Su. Mi fai fare un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Animali liberi! Animali liberi! David, potresti andare a fare in culo tu e l'amico tuo Macron, mando a offendere però e manco un me denunciare che io c'ho paura. David, non sei triste, sei imbecille, punto, non ci passa altro, sei un emerito imbecille. David, ricordati quella volta che siamo andati alla Napola sotterranea con la nostra amica e tu c'avevi il tuo maglioncino di cashmere e avevi tanta paura che si rovinasse. Ricordati bene. Ciao, buona serata. Continua la saga di Parenzo a Napoli. Continua la diffamazione a altre puntate. Ma cosa? Ma guarda che avete costruito una diffamazione, ma bella e diffamazione, buona, per la ma quale pagherete parli, carissimo. Pagherete carissimo. Hai costruito maglioncino di cashmere della Napoli sotterranea. Ma che intanto il cashmere si usa soltanto sei fili. Perché voglio dire, tutti gli altri non sono, no? Cosa dice Giovanni? Sei fili il cashmere almeno. Ma quando mai? Cinque, dai, fili. Su, ma dai. Cinque fili, dice Giovanni, cioè. Sei? Quanti? Beh, che c'entra questo? No, scusa, dice cosa cinque c'entra? Fili di cashmere. Che ma cosa c'entra? Casa, altrimenti cosa non c'entra? È un cashmere. Cosa cinque c'entra? Fili, ci vogliono. Cosa c'entra? Eh? Vabbè, sgarbi contro cosa? Ragazzi, fatemi sentire. Inutile che parli con il tuo vicino che non si sente un cazzo. Che la meta radio questa qua si deve la sentire, no? Radio. La meta radio. Adesso glielo facciamo, cioè, dire. Quella che non si sente praticamente. Quella che non si sente. Comunque, ragazzi, ci sono sempre più testimonianze di queste gite continue di Parenzo a Napoli. Dove molto probabilmente, come io so perché tu me l'hai confessato, aveva un amante. Ma non è uno scandalo. Non è uno scandalo, sì, è una... Ma guarda che sei veramente. Ma come si fa a costruire una diffamazione? Ma perché così arrivano conferme con cui... su conferme di questa storia? Ma io adesso ti faccio arrivare conferme, allora. Di che cosa? Di quando tu sei stato con il trans sulla Salaria. Ma e guarda, abbiamo io non le mi prove. Scandalizzo per niente. Questa è la... no, non, non è vero, ma non mi se fosse vero. Non... Ma io. Ma tu ti rendi conto di quello che mi hai. Del casino nel quale mi stai mettendo per una ma tua balla radiofonica. C'è gente che conferma che via Cilea il nome della persona, il tuo abbandono, il fatto che poi hai detto ho una famiglia, ho una famiglia e non posso, è tutto presente, è tutto lì, è tutto lì provato. Guarda che ormai siamo alla follia totale, proprio. Sei allora, pazzo, la Raggi, sei un tu sei un criminale radiofonico, cioè Saddam Hussein in confronto a te era una persona di pace, in confronto allora, a te tu sei Sgarbi un crimine, uno sei un distruggi persone con questa trasmissioncina, poi metti sotto le musichette, gli audio fatti, artefatti e creati apposta, tu e quell'altro scusa, la corte siete due criminali. Ma hai appena detto che io in realtà guardavo dal buco della serratura Malena e Sgarbi che facevano roba. Beh, scusami, su quello abbiamo le prove. Appunto. E su quello abbiamo le prove. Sgarbi, Raggi, sei una morta di sonno che non fai un cazzo. Sgarbi ogni volta quando è querelato, la cosa straordinaria del professor Sgarbi. No, esatto, sì, cioè, sì, no, bravo. Dai, mette il carico da 90. Sì, questa è una tecnica tipica anche del professor Taormina. Cioè, quando tu sei querelato, non stai tranquillo. Sì, non devi indietreggiare, mai. No, ancora carico sempre da 90. Roba incredibile. Cioè, tu sei molto peggio che incapace. Non vale un cazzo. Sei una morta di sonno. Non fai un cazzo. Sei a Roma e la fai sprofondare. Non perché non ti occupi della di cosa ti occupi prevalentemente, di cosa ti occupi tu, della pulizia delle strade, cosa fai perché ti occupi dei cimiteri, della pulizia degli stadi. No, perché Roma pretende di essere una città che va onorata, per esempio, con le Olimpiadi. E tu hai detto di no. Ancora. Quindi tu vuoi che io dimostri che sei incapace? Allora andiamo in tribunale. Però anch'io, se devi andare dal mio avvocato, vengo io, ti guardo negli occhi, ti penetro negli occhi e ti faccio capire, ti chinerai il capo dicendo io non so fare un cazzo. Non so fare un cazzo. Sono un avvocaticchio di uno studiolo di avvocati che per puro buco di culo è diventato sindaco con dei voti di coglioni che non sapevano che cazzo votare e pretendo di essere onorata perché tu sei onesto, onestissimo, hai visto una più onesta di te, onestissimo. Finale col botto, senti, no, ma incredibile. Querelato dalla Raggi, gli dice sei un avvocaticchio eletta per il buco di culo dai coglioni. No, ma è così. Cioè, la cosa incredibile di Sgarbi. Più tardi chiarirò tutta questa vicenda di Malena. Più tardi, alle 20:30, chiarirò tutto, nonostante quello che dice Parenzo. Sì, io, ragazzi, io me ne sono andato a un certo punto. Quando lui dice io ho detto una falsità per quel guardone di Cruciani. A un certo punto. No, io ho detto. Quando lui dice io ho raccontato falsità, a parte che non è vero perché quando gliel'abbiamo chiesto cosa ha fatto con Malena ha risposto in maniera spontanea. Quando lui dice ho raccontato quelle balle, una menzogna o comunque ho detto una storia inventata per quel guardone di Cruciani, sì. Guarda che, caro Vittorio, essere guardoni qualche volta è straordinario. Io volevo rivalutare la figura del guardone da questo punto di vista. Cioè il guardone è un personaggio strepitoso. Patetica. Cioè alla fine quando è meglio guardare. Quando poi hai provato a corrompere il concierge, cioè, perché volevi entrare, farti dare la copia di chiavi sostitutiva. Ma che ma cazzo guarda, dici? Ma mandiamo l'ultimo Sgarbi. C'ho il concierge dai. Qui se vuoi, ce l'ho qui. Mandiamo l'ultimo Sgarbi, dai. Io se ero in te sarei stato più sottile. Avrei ignorato Sgarbi. È meglio ignorarlo, perché averlo nemico è peggio. È peggio. Cara Raggi. oggi io non ti mollo più, ti porterò con me fino all'inferno e lì verrai punita per la tua incapacità, che è un peccato mortale. Pensa alla tua anima, Raggi, onesta, onestissima, all'inferno. Beh, ragazzi, questo è un pezzo straordinario, uno straordinario pezzo teatrale. Comunque, no, bellissimo. A proposito di Roma, a proposito di Roma, diciamo subito una cosa. Allora, è una proposta importante. Sì. Privatizzare l'ATAC, il trasporto pubblico. Vabbè, ma, adesso, ma che ce ne frega adesso? No, no, tu, ce ne frega. Quel pezzo teatrale di Sgarbi, sì, mi pare da, dell'ATAC. Sì. Ma che cazzo ce ne frega? Privatizzare il trasporto, dai, pubblico. Oggi, vengono oggi, dalle, dai, 18 alle, su, 21 a Piazza Navona, raccolta firme radicali. Ma chi se ne frega? Sentiamo gli ascoltatori. Dai, per chiedere la privatizzazione del trasporto pubblico di Roma. Maurizio da Vicenza. Servono compagni e compagni, 30.000 firme entro il 31 di luglio. Non rompere i coglioni, Maurizio da Vicenza. Un attimo, mamma mia, quanto rompe le palle. Dai, volevo chiedere a Parenzo, ma tu ti rendi conto che tu sei ciò che disprezzi? Adesso io decido con chi parlare. Cioè, in, che allora, senso, in base, scusa, al tono della voce, a prescindere, aspetta, dalla domanda, questo è interessante. Voglio ma scegliere con chi parlare. Con questo non dialogo. Tu sei tutto ciò che disprezzi. Non, e parlo, non con questo. Adesso non cioè, è peggio di Gianni, dici tu. Molto peggio di Gianni. Beh, guarda, Cruciani, ascolta un attimo. Una persona che elogia tanto gli americani, che alla fine, si sa, basta leggere un po' di storia, sono i più grandi assassini al mondo. Beh, adesso è una persona cazzo che dici, elogia americani. Dai, che più grandi assassini al mondo, dai. Comunque sia, io adesso vorrei sapere che fastidio gli dà al signore, accanto a te, sì, una spiaggia dove non ci sono persone che rompono le palle, dove, sì, non ci sono persone che sporcano, sì, dove non ci sono ragazzini, dove non ci sono delinquenti, dove non ci sono persone. Ma lui che dice che fa apologia che... del fascismo, no, contro la legge. Fa apologia del fascismo, ma dopo mi elogia Lampi, che praticamente ha i tre quarti composta da tutta gente dei centri sociali, che gira con le canne in bocca, con bombe carta. Vabbè, con quello bastone, che c'entra, quello, adesso, dai. Quello, c'è, quello non c'entra nulla, dai. Bombe quello non c'entra carta. Nulla. No, lui dice Lampi, girano. Lampi non c'entrano un cazzo. No, non Lampi. Ci sono persone che, vabbè, hanno da te. Ma io scelgo con chi parlare. Carlo, questo non parlo. Carlo, dimmi. Pronto? Abbassa la radio, Carlo. Eccolo, sta buono, sta zitto, Giuseppe. No, come sta zitto un cazzo, scusa, Carlo. Allora parla te, per sto zitto. No, dimmi, ho detto di abbassare la radio, non è che ti ho detto gotica, dai. Stavo a pensare che mo gli avevo una licenza e lì sembravamo proprio un bel campo nomadi, come la vedi? No, ancora. O se no ci possiamo fare una cosa, una... Che ci possiamo fare? Niente, ci possiamo fare una... Come si chiama? Mannaggia, non mi viene mai in mente il nome. Vabbè, Carlo, una che vuoi dire tu? Dimmi. Una chiesa per i musulmani, no? Ah, tu dici una moschea. Una moschea, La moschea ci possiamo fare, una sinagoga ci possiamo fare, sì, capito? Ah, così tu sei molto fascista, Carlo? Ma se io sono Carlo De Roma, il camionista? Ma lo so, ma dillo tu, sei sono molto allora, fascista. Che me lo chiede a fa? Sempre meglio dirlo, così sei molto fascista. Io mi chiedo, ma con tutti i cervelli in fuga, uno, ma perché cosa? Anche lui non se ne va? Questo è mantecato di cervello e mantecato di merda, perché? Come ha detto quello De Roma, è mantecato di merda. Perché persiste merda sul territorio nazionale questo signore? Perché? Non c'ha la laurea perché ma perché persiste sulla penisola? Perché? Con tutte le raccomandazioni che c'ha. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Querela, 19:45, querela, basta, chiuso. Vendi il camion, vendi il camion. Oggi mi ha telefonato mio cugino, ha detto, dice sta cazzo, andando a fuoco a Barbuda, lo sai qual è la Barbuda, Roma? Sì, Campo Rom, sì. Allora? Se stanno a fuoco, ho detto, gira tutto attorno, li fa uscire. Perché la gira con la macchina, li fa uscire. Dice, stanno a fuoco. Cioè, tu vorresti che i Rom bruciassero? Non è che volevo che Rom bruciassero, vuoi come l'ho detto, mentono, non li fa uscire, hai detto? Sta zitto, non mette parole in bocca. Sta zitto, ma che sei fascista che vero? Quando entrano dentro in Italia, guardassero la Costituzione, l'articolo 1, che l'Italia è fondata sul lavoro e loro non gliene frega un cazzo. Ecco, vabbè, Carlo, ti saluto. Antonino da Catania, dai, Antonino, vai. Pronto? Antonino, dimmi, Antonino. Ciao Cruciani, senti una cosa, una gentilezza, io ti ascolto da parecchi anni. Dimmi. Allora, io ho 61 anni, Io in famiglia ho avuto, mio padre era un comunista, mio zio era quello più grande, però da giovani è fatto parte della milizia, ha dovuto firmare mio nonno. Però non facciamo adesso la storia, che vuoi dire? Allora io quando poi ho iniziato pure i 12 anni, i 13 anni, lui diciamo mi ha detto un po' di storia, qualcosa del fascismo, di Mussolini, e poi io ho studiato tante cose. Nel 78 quando ho avuto il mio secondo figlio, anziché di mettere il nome di mio suocero, io gli ho messo Benito in onore di Benito Mussolini, secondo me, di quello che aveva costruito l'Italia. Ognuno ha le sue fissazioni, essendo che io abbiamo avuto fissato pure un presidente qui del Sole 24 Ore che si chiama Benito Benedini. Benito, c'è stato tante Benito. Allora che cosa ho fatto, un reato? Ma che c'entra adesso? Questa è un'altra cosa. Ciao Antonio. Allora, caro Davide, io a questo punto, dopo tante discussioni, chiamerei il diretto interessato. Il signor Gianni Scarpa, Punta Canna, Chioggia. Sentiamo. Sì? Sì, Scarpa? Sono vivo. Oh, eccoci qui, sono Cruciani, come stai? Bene, dai, sono vivo. Senti, allora io voglio capire una cosa, che cosa succede? Ti tolgono la licenza? Guarda, a me non mi tolgono proprio un cazzo. In che senso? Perché? Io sono il bagnino, tesoro. Io è dal 2010 che ho venduto, hai capito? E dunque sei un dipendente? Dal 2011 io sono il bagnino. Dunque sei un dipendente praticamente? L'hai capito, bravo. E dunque gliele metti in quel posto? Ma se lo dici tu può essere. No, nel senso che se al massimo possono togliere la licenza. E chi è il proprietario della licenza? Io ti dico che di tutto quello che mi stanno massacrando i giornalisti, le cose. No, io non ti massacro. A voi tutti rispondo, me ne frego. Ti saluto, buonasera. No, ma io non ti massacro, Scarpa. Oh, per una volta non ha attaccato il telefono a te, caro David, eh? Cioè, sì, non ti ha dato nemmeno il tempo di rispondere. È pure un codardo. Ma adesso richiamiamo, dai, richiamiamo. Richiamate, ragazzi. Vai, forza. Guarda che sto lavorando. Allora, Scarpa, però io non sono contro di te. Io sono Cruciani Radio 24. Non sono contro. Tu hai tutto il diritto di esporre. Cruciani Radio 24. Allora, ma tu hai tu. Lavorando, lo so. Aspetta. Tu hai tutto il diritto di esporre quello che ti. Aspetta. Tu hai tutto il diritto di esporre quello che ti pare, chiaro? Cioè, questa è la mia opinione. Hai tutto il diritto di esporre quello che ti pare. Allora, io voglio capire che ne pensi di questi qua, dell'Ampi di Chioggia, che ti vogliono togliere la licenza. Che non a te, ma al titolare. Che ne pensi di questi qua? Ma guarda, io non so neanche cosa rispondere. Non penso niente, perché neanche li conosco. Poi stanno girando quei titolari. Io cosa vuoi? Io ho 64 anni, sono mezzo rimbambito. Potrebbe essere l'ultima stagione che faccio, speriamo. Meno male, perché sono stanco morto, che cazzo devo dire. Ma ho 64 anni, io. Ma vabbè, 64 anni, uno è anche giovane, ancora scopia a 64 anni. Il fatto che sia un ritornato non c'è. Uno è ancora giovane, però insomma, dai. No, voglio capire da te una cosa. Ma che cosa ha fatto di buono Mussolini, secondo te? Niente. Allora, guarda, che cosa ha fatto di buono? A me viene da ridere, perché ha fatto le cose buone che ci sono in Italia. Poi ha fatto una cosa orribile, di mandare gli italiani in guerra. Se vuoi dire, è stata orribile. Però la bonifica, le pensioni, l'INPS, gli asili, l'ha fatta tutta lui, no? Io avrei messo la foto del Che Guevara. Hai capito? Non mi interessa niente, io non sono né di destra né di sinistra. Beh, oddio, questo no, perché tu hai detto che sei contro la democrazia, per esempio. Hai bagnato. Cosa vuoi? Hai detto che sei un antidemocratico, ti piace il regime, sei a favore del regime, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie, non ti devi tirare in. Anche Che Guevara era regime, dai, ha fatto delle cose belle anche lui. Cioè, dai. Per te la democrazia fa schifo, non ti piace la democrazia? No, io me ne frego, non sono antipolitico, non ho mai votato in vita mia, non capisco un cazzo di politica. Ecco, sul fatto che lei non capisca un cazzo, questo è molto chiaro, guardi. Sono Parenzo, bravo. E la prima cosa giusta che lei ha detto, lei non capisce un cazzo. Oh. Benissimo, sono orgoglioso, ho capito un cazzo e me ne frego. Ciao tesoro. No, scusami un attimo, io voglio capire una cosa. La gente oggi come ha reagito lì a Chioggia? Si sono suicidati in 16. Si sono suicidati in 16 e domani sono previsti 23 suicidi. No, ma la gente che è venuta, la gente che è venuta lì allo stabilimento, che cosa ti ha detto? No, oggi non è venuto nessuno. Nessuno, è venuto nessuno. Guarda, io sto lavorando perché tengo d'occhio, ciao ragazzi, grazie. Tengo d'occhio la gente dei campesi vicini, perché non c'è un cazzo da fare. E qui non è venuto nessuno oggi. Senti, ma nessuno. Che vuol dire? Che vuol dire che vuoi lo stermino dei tossici quando hai detto quella roba là? Che cazzo ma vuol perché, dire? Perché una volta un tossico mi ha piantato un ago nel 1997 su una discussione dove doveva andare via e non drogarsi in mezzo alla gente, mi ha piantato l'ago nel braccio sinistro. Volevo vedere te al posto mio. Io mi sono tolto la siringa e gli ho rotto tutti i denti, hai capito? E da quella volta mi sono antipatici, tutto lì. Ma che vuol dire volere lo stermino dei tossici? Vuole ammazzare tutti? Ma cosa vuoi sterminare? Però tu... Che mi sono antipatici, una roba goliardica per fare un po' di confusione. Cosa Hitler ha qualcosa di simpatico, ha fatto qualcosa di buono secondo te Hitler? Hitler, ma come cazzo, e chi l'ha conosciuto? Era un tedesco, quello lì. Sì, però... Hitler ha fatto una cosa orribile. Io amo i gay, amo le lesbiche, amo tutta la gente che si comporta bene, come mi interessa a me. E gli ebrei sono intelligenti e vanno rispettati perché sono bravi a fare i soldi. La gente meglio di te la devi ammirare, non invidiare o volerli male. Però Mussolini l'ha mandati nei campi di concentramento gli ebrei. Ma Mussolini aveva fatto lo sbaglio atroce, quindi non doveva farlo. Però scusami, io parlo delle bonifiche, delle cose buone che ha fatto. Sì, però era un dittatore. Era un dittatore pazzesco, dai, su. E adesso quelli che abbiamo, secondo te, sono peggio? Meno dittatori di voi, dai. Sono peggio di Mussolini, secondo te? Ma no, io non dico questo, me ne frego. Però non va bene neanche adesso, dai. Allora, beviamoci su e buonanotte. Ma adesso ti vogliono mettere sotto indagine per apologia di fascismo, certo, capito? Certo. Li ringrazio tutti e sono mi mettono sotto al progetto di fascismo, li ringrazio tutti, e se si sentono di fare questo li ringrazio tutti. Adesso sono stanco, morto, che sono vecchio. Ciao tesoro, buonanotte. Aspetta un attimo, che fai? Che mi lasci così? Ma che sei? Ma ti auguro buonanotte, sono stanco. Chiudo è perché sono stanco, sono vecchio, ciao. Ciao. Lorenzo, sta sereno per la storia della scappatella a Napoli. Alla fine, te che guadagni soltanto, che te fai vedere che te piace la mona. Vai! Io non posso dire quello che penso di quell'odioso di Parenzo, perché sennò altro che querela, rischio l'arresto. Per cui mi limiterò solo a dire l'unica cosa positiva che vedo in Parenzo. Effettivamente ha del coraggio, perché è uno degli uomini più odiati d'Italia e rischia parecchio, perché chissà quanta gente se lo vede gli spaccherebbe la faccia. Eppure va avanti imperterrito a dire queste scemenze. Devo dire, sotto quell'aspetto lì, ha del coraggio. Allora, durante il weekend mi sono messo a leggiucchiare l'ultimo libro del signor Costantino, l'ultimo libro, forse l'unico, del signor Costantino della Gherardesca. No, ma ci sono cose interessanti, non mettetevi a ridere. E c'è un piccolo passaggio che vi voglio leggere. Non cadete nello stesso errore di tutti quegli omosessuali che non desiderano altro che un matrimonio in chiesa e dei figli biologici da battezzare. Abbiate la decenza di scegliere dei traguardi allettanti e piantatela di condividere gli stessi obiettivi di vita di una quindicenne mennonita. Lasciamo perdere la parola mennonita. Che cosa direbbe il povero Foucault se vi sentisse parlare di fedi nuziali e bouquet come una di quelle povere donne meridionali su cui Enzo Miccio ha furbamente costruito un impero? Negli anni 70 il filosofo francese pensava che i gay avrebbero convertito gli etero alla libertà sessuale. Invece è successo il contrario. Oggi gli omosessuali sono ipnotizzati dalla perfetta famigliola americana. Muscoli, denti di porcellana e peli biondi. abbiamo barattato il nostro ruolo di pionieri della futura umanità con una foto di famiglia, le stesse che i piloti della Luftwaffe, quella tedesca di Hitler, mettevano sui cruscotti dei loro Messerschmitt. Grandioso. Giuffa sta male, sento dalla voce che sta male. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, le nati, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Bella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Come Macron! Cruciani, testa di cazzo di merda, sei soltanto un razzista di merda. Io faccio scommesso con te. Fai una emissione fino alla fine senza parlare immigrati, musulmani, negri o roba del genere. Sei soltanto un razzista di merda, non sei altro, Cruciani. Vai fare il culo. Cruciani, sono a Barcellona con mia moglie, che lei fa parte della maggioranza silenziosa e io no. E ci sono i pisciatoi a cielo aperto vicino alla spiaggia. I pisciatoi. È tutto degradato. E anche secondo me. Le paleoliche sono bellissime. E niente, volevo dirti solo una cosa. Per tutti coloro che chiamano Parenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo. Mantecato di merda. Lo sai, Davide, che io non ho ancora capito il motivo per cui vogliono fare questa legge contro i cimeli fascisti. Ma com'è? Ma ti rendi conto che c'è il Parlamento, semplice. Lo ripeto, certo, ancora una volta, il Parlamento che si interessa di questa roba qui con tutte le cose è che normale. Ci sono da fare in Italia, è una follia inaudita. Ma è normale, è giusto che sia così, interessarsi, come ci sono, è pieno di reduci e di nostalgici. Tu sai, in Germania il governo tedesco ha fatto una cosa straordinaria, vuole abbattere o forse ha già abbattuto la casa ma dove a un certo punto cosa c'entra questo? Non, ma non c'entra niente. I luoghi dove ha vissuto Hitler non devono diventare luoghi di pellegrinaggio. Vuoi abbattere Predappio? Vuoi distruggere Predappio? No, però ad esempio, abbattere no, ma ad esempio quel posto non può diventare la commemorazione del Duce. Ma che commemorazione? Ogni anno dai, vedere su la sfilata di questi miserabili fascisti. Vabbè. 2.0. Vabbè. Che vestiti di nero fammi vanno sentire a fare a ricordare quel dittatore. Questa è un'immagine agghiacciante. Fammi sentire agghiacciante. Fausto, dai, Fausto da Roma, vai, Fausto. Agghiacciante. Fausto. Pronto? Dimmi, Fausto, dimmi. Ma il vomito sta là vicino a te? Il vomito, sì, cioè, ti riferisci a Parenzo? Il vomito solo uno, Parenzo, Vai, vai, che vuoi dire a Parenzo? Buonasera, grazie per aver telefonato. Dica, caro, dica. Ma perché vuoi abbattere i simboli fascisti? Quello voglio dire. Ma io, per quale ma motivo? Io, ma sono come fiero di, io sono fiero di essere fascista. Sono fiero. Ma quello vedi, che ha aperto lo stabilimento a Chioggia, bisognerebbe farlo, è cavaliere del lavoro. Capito? Quello che ha aperto lo stabilimento, farlo cavaliere del lavoro, capito? Ma questo mi dà interessante, però io una capatina ce la faccio e spero ma che ne apra pure uno qui a Ostia. Capito? Che schifo, con schifo. Comunque, se le piace la carnevalata del fascismo, vada pure, sei un finto, non caghi, non pisci, non ma pescacoli, credo, no, non in testa tua, rompi il cazzo, lo faccio. Oh, ma guarda che tu, io ti ho visto in televisione sulla 7, dico sì. Sei brutto. Sei nano, ma che c'entra adesso? Non capisci mancato. Però Fausto, scusami un attimo. Sì. Fausto, scusami un attimo, guarda, non ho capito. Tu non la pensa andresti, così, ma non importa. Tu andresti a Foggia? Sì, a Foggia, a Chioggia. A Chioggia, tu andresti... come no? No, no, andrei, ci vado. No, andrei. Vai, ci se vado ti piace onorare, così, vai. Per onorare il Duce e dire sì. Un grazie a quell'imprenditore. A quell'imprenditore che ne dovrebbe aprire uno pure qui a Ostia. No, ma la cosa incredibile, la cosa incredibile è che questo qua gli vogliono togliere il lavoro e la concessione. Beh, certo, cioè, questo è incredibile. Ma sono i comunisti, no? Ma è normale, no? Ma no, ma adesso c'è tutta una canea inutile. A me non mi interessa. Sì, ma io aspetta un attimo. Perché, perché bandiera rossa si può cantare e faccetta certo. Nera no? Sì. Non ho capito per quale così. Motivo. Perché è così, stupido? È così, mi dispiace. Parenzo, tu non fai testo. Parenzo, tu non fai proprio. Ma lei ha letto proprio. La Costituzione? No, perché per lei è una lettura impegnativa. La Costituzione verrà cambiata, caro Parenzo. E quelli come te. Fino a quando non la cambia? Fino a quando? Fine, te lo dico io. Mamma mia, che paura. Mamma mia, che paura del fascistello 2.0. Mamma mia, che paura. Vienimi a prendere, sciocco. Siamo più di quelli che tu pensi, caro Parenzo. Sciocco. Siamo più di quelli che tu pensi. Sciocco, povero sciocco. La storia si ripete. La ma che si ripete? Si ripete in farsa. In farsa si ripete. Vai a lavorare ripete. Anziché fare l'elogio del fascismo. Vai a guadagnarti da vivere, stupido. Io vai a guadagnarti da vivere. Vai a guadagnarti da vivere. Miserabile. Vai a guadagnarti da vivere. Vai a guadagnarti da vivere. Secondo te questo qua sarebbe da denunciare? Fermi tutti. Ma certo che è da denunciare. Ma perché da denunciare? È l'elogio del fascismo continuo. Vai a guadagnarti da vivere, ho fatto internare per problemi di salute. L'olio d'origine, capito? Fallo bene a sti quattro sozzoni che vanno a rompere i coglioni in giro ai centri sociali, a sti quattro arrenditi. Siete fuori legge. Arrenditi, alza le mani. Siete fuori legge. Aspetta, Giancarlo da Milano, fermi tutti. Giancarlo, fermo là, Fausto. Giancarlo da Milano, Giancarlo. Arrenditi, alza le mani. Dimmi, Giancarlo. Io volevo parlare, quel signore lì forse non ha capito una cosa. Chi? Quale signore? Che quando uno si chiama fascista è contro legge. C'è poco da fare. E molto lui semplice. Che sta a rompere i coglioni. Io sono esatto. Comunista, ma io posso dirlo chiaramente che sono comunista. Bravo. Perché nessuno mamma mi può mia. Dire ma che vado in prigione. Nessuno mi può dire niente. Fermo, falso. È contro la legge. Chi si proclama fascista andrebbe in galera, ma subito. Vabbè, Giancarlo, ma perché? Scusa, io voglio dire ancora una volta, ma l'abbiamo ripetuto tante volte anche in questa trasmissione, i comunisti hanno fatto crimini uguali, no, se non più grossi dei fascisti. Ma guarda che un comunista ha firmato la Costituzione, lo sai o no? Ma lo sai o no? Aveva un cognome e un nome. Ma il ministro della giustizia è stato Togliatti che ha fatto l'amnistia ai fascisti. Vabbè, ragazzi, pure. Scusami un attimo, Giancarlo, tu che faresti con quel tizio di Chioggia, con quello il bagnino di Chioggia? È stato, va. Giancarlo. Ma quello che ha tirato la licenza, le carnevalate. Ah, bello, come siete bravi col lavoro degli altri! Come siete bravi col lavoro degli altri! Come siete bravi col lavoro degli altri! Ma che lavoro è questo qua? Ma mi tu che lavoro fai? Tu che lavoro fai? Può essere fascista, se lo tiene per lui, mette su club privé, poi che faccia dentro quello che vuole, ci mette tutti gli stemmi che vuole, faccia quello che vuole. Ma all'esterno... E il pubblico non lo mette. No, l'esterno adesso è pieno di statue del fascismo. È pieno di statue del fascismo dappertutto. Ma che c'entra quello? Dai, abbattiamo tutte le statue, abbattiamo tutte le costruzioni del fascismo. Assolutamente no. Dai, un po' di coerenza, dai, su. Quello anzi, quello è un turismo. Abbiamo una costituzione, va rispettata. È arrivato. La costituzione fatta da chi? Da sti quattro comunisti di merda come te che fanno i froci col culo dell'altri. Eccolo qua. Che hanno levato il lavoro. Intellettuale della destra emergente. Giancarlo, rispondi a te. A te devono levare tutto e mettiti in un ospedale psichiatrico. Altro che. Scusate un attimo. Come scusa? Niente di aprire il lido. Se lo apre tranquillamente. Ce l'aveva aperto. Sa messo gli uffici fascisti, che cazzo volete esatto, da me? La Costituzione esatto. Cosa dice? Che è un reato, dai, è un reato. Su, ma dai, un reato da... di che? Ma un reato di che? Ma vaffanculo te e tutti i comunisti come te, astronzo, capito? Vattene dentro i centri sociali, che sono tutti drogati e pezzi di merda. Ma chi è questo qui? Ma chi te l'ha detto questo, che tutti i centri sociali? Scusami, Fausto, Fausto, che mestiere dentro. Fai tu? Fermo, Fausto, che mestiere fai? Storia siamo. Che mestiere fai tu, Fausto? Io faccio un'audizia da 5 50 anni che faccio l'audito. Ma lascia stare l'audito, sei semplicemente un coglione. Ma quale è un coglione? Basta. Io autista, 36 anni, ho già fatto più di 6 milioni di chilometri. Pure te, autista, tutte e due autisti, vabbè. Sì. Oh. Che te devo dire? E pensa a botte quanto è scemo quello, fa un bucio di culo così da mattina. Mi rovinata che c'hai, il padrone, se 50 anni facevi di galera e meno avevi la pensione a quest'ora. Vabbè, ciao Fausto, ciao Giancarlo, fermi tutti. Matteo da Chieti, vai. Sì, salve, io volevo fare una domanda a Parenzo, gli volevo chiedere, i suoi cercatori di felicità, secondo lui, dove li trovano i soldi per affrontare il viaggio col barcone, visto che un viaggio col barcone pagano cifre da 10, 15, 20 mila dollari, anche 30 mila? Anche ci sono persone che con i loro piccoli risparmi per trovare la felicità decidono di investire i loro piccoli risparmi e rischiano un viaggio della morte, come spesso accade, perché chi ha fame, chi vive in una situazione di guerra, non lo ormai fermi. Ormai sei rimasto da solo a dire queste fermi, cose. Ma non è che sei rimasto da solo a dire queste. È talmente evidente da essere praticamente banale. Se hai paura, scappi. Ma non e dire non stronzate, esistono... dai, su, basta con queste puttanate. Se tu dai. Vivi in uno scenario di guerra, ma oppure nessuno, vivi con i tuoi sono bambini una che non quelli hanno che da mangiare, oppure vivi in un territorio che non ti dà da mangiare, fai di tutto per salvare i tuoi figli, la tua vita. Sì, è una cosa talmente lavoro... normale da essere banale, capito? Quando sì, capirete questo. Io che lavoro onestamente, io 20.000 dollari non ce li ho. Dove li vado a prendere? Chi ha detto 20.000? Allora, a parte prendo? Che ormai i viaggi della speranza costano ancora meno, perché come si sa, infatti 10.000, 5.000, io non ho nemmeno 2.000 euro da parte, eppure lavoro. Io non ce l'ho questi soldi. Quindi da lei loro, mi faccia capire, quindi lei sostiene che queste persone vengono qui per invaderci rischiando di morire in mare, ma sarebbero no, dei non furbacchioni. Non dico che vengono per invaderci, io dico solamente che se hanno 10 o 20. Cioè non ho capito, uno affronta, ma allora se uno volesse avere veramente tutti questi soldi prenderebbe un bellissimo aereo in business class, esatto. E atterrerebbe alla Malpensa o ma a Fiumicino. Ma che è sto rumore? Da chi invece viene sto no. rumore? L'ascoltato? Che ne so io? È l'ascoltatore che c'ha sto rumore, il suo bypass sarà, il suo bypass sarà. Ma c'hai un beep sul telefonino fastidiosissimo. Sì, sul bypass. Che il bypass, che c'hai? No, niente, io addirittura mi sono allontanato pure da dove mi stanno caricando. Ma che ne so, c'è un rumore, ciao. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è Sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi tipo convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. La Zanzara. Tanto ci state sul cazzo da morire, ci state sul cazzo. Accendino? No. No, va bene, grazie. Ci state sul cazzo da morire. Però vogliamo bene, vi vogliamo. Cioè, senza di voi, la vita avrebbe un altro sapore. Ma veramente, ma come cazzo. E poi c'è, cioè, alla fine la qualità della vita non è che ce l'avete migliorata, perché mi alzo la mattina, penso come Macron, oppure il pomeriggio sento una persona parlare e penso questo è un miserabile. Così veramente. Però ragazzi, continuate così veramente. Siamo al top, Cruciani, siamo al top. La Zanzara. Cruciani, oggi ho la discussione della tesi e intanto ascolto il podcast della Zanzara. Siamo al top. Naturalmente. Ma spiegami un po', Cruciani, ma le porcate che dicono i nazifascisti sull'LGBT e sulla comunità ebraica sono più passibili di pentimento riguardo le porcate che dici tu nei confronti dei musulmani? Ma non tanto dei musulmani quanto dell'Islam intesa come religione, prendendo in giro il richiamo alla preghiera, prendendo in giro il profeta, prendendo in giro le invocazioni. Quello invece tu non ti devi pentire, io sono in diritto di dirlo. E il fascista invece non è in diritto di dire quelle sue stronzate ignobili? Se tu sei in diritto anche lui, ricordatelo bene. E quando dici pentiti, pentiti, pentiti con la vocetta da cazzo, facendo il piccolo bravetto da due soldi, giustamente, come ti diceva quel soggetto tuo ignobile, fatelo rimbombare in testa quando prendi in giro una religione di 1,5 miliardi di persone, perché tu sei uguale al nazifascista che tentavi di dire pentiti, di farlo pentire, hai capito? Sono d'accordo con il signor Taveggio. Ha detto negli stadi bisogna fare i supermercati, la lap dance. Sono d'accordissimo, ma non la lap dance, un bordello ma grave nello stadio. Magari a Roma, così io non ci vado più in Austria. Avremo un welcome a Roma, lo stadio, un welcome a Roma. Oppure un welcome massimo, massimo a Firenze. A così invece di farmi 700 km, me ne faccio 80, 100, 200. Avremo un welcome dentro lo stadio. E mettiamo bella signorine, tutte profumate, coi tacchi, capatacca di fuori, con bello sticchio tutto rasato. Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Allora, sono d'accordo, signor Taveggio. Se vuole mi può contattare al mio numero, se lo faccio dare da La Zanzara. Le do i consigli su come aprire un bordello dentro lo stadio. Arrivederci dal karma, al karma, dal karma. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Il la lap dance. Allora ragazzi, eccoci qui. Nei giorni scorsi cosa c'è stato, caro Parenzo? So che te ne devi andare, ma dobbiamo fare l'ultima cosa, che è questa. Nei giorni scorsi tre ex deputati sono riusciti a ottenere di nuovo il vitalizio insieme agli arretrati. Tutto questo perché a un certo punto sono stati riabilitati. La riabilitazione ha cancellato praticamente quella norma della Camera che prevedeva il vitalizio, cioè prevedeva la cancellazione del vitalizio, e dunque hanno non solo ripreso il vitalizio ma anche gli arretrati, uno scandalo pazzesco permesso ovviamente dalla legge. Tra questi tre deputati che hanno ripreso, ex deputati che hanno ripreso il vitalizio, credo 4-5 mila euro, c'è Massimo Abbatangelo, ex estremista di destra, condannato a vari anni per detenzione di esplosivo. Io direi di chiamarlo, poi te ne vai, fermo. Pronto? Massimo? Chi è? Oh, Radio 24, come stai? Tutto bene, dimmi. Senti, ma grande successo allora. Ma non c'è male. Beh, pure gli arretrati. Non lo so. Beh, dicono di sì. Cioè, ti chiedo una cortesia soltanto. Dimmi, Massimo, dimmi. Non voglio dare risposte, abbia pazienza. No, però scusa, è importante questo. È importante. Non voglio essere scortese con nessuno. Appunto, non essere scortese, però è importante questa cosa. Lo so, che devo fare? No, ma 5.600 al mese più 100.000 quasi gli arretrati. Non lo so, questo lo dite voi. Ma come lo dice voi? Sei stato riabilitato? Diciamo la verità, sin dall'inizio questa storia era una farsa, la possiamo dire sta cosa o no? Totalmente. Penso di sì, non lo so. Hai saputo Grillo che cosa ha fatto? Che ha fatto Grillo? Ha pubblicato una roba con la faccia pure tua, c'è scritto Abbatangelo, detenzione di esplosivi, 5.600 al mese, 100.000 euro di arretrati, tre ex con le vostre facce, una di De Caro, di Sastone, quegli altri che sono stati riabilitati. Grillo pensasse all'omicidio che fece. Tre ex deputati condannati riottengono il vitalizio grazie al PD, così in prima pagina. Devo dire, ringraziamo il PD. La legge, tecnicamente è così, però. Non è che ha scritto una cosa falsa. La legge è una buffonata, no, Massimo? Non te lo so dire, bello mio. Ma perché non vuoi dire quello che pensi su questa storia? Scusami. È perché ti ho detto che voglio trattarti con cortesia, non essendo io una persona scostumata, che se ne possa pensare. No, chi ha detto che sei scostumato? Non intendo parlarne proprio più di questa storia. Ma scusami, uno deve difendere. Tu lo consideri un privilegio questo qua del vitalizio o no? Non lo so. Cioè, ti consideri un privilegiato oppure ti consideri uno che giustamente deve prendere 5.600 euro di vitalizio oppure gli arretrati? Non te lo so dire, giudicatelo voi. No, ma tu ti consideri un privilegiato? Ti consideri un privilegiato o no? Questo rispondi. Le domande che già mi stai facendo, mi costringi a staccare il telefono. Ma perché? Perché? Scusami. We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap. Abbatangelo contro Grillo. Abbatangelo contro Grillo. David, devi andare via, mi sembra, no? E dottor Leola, doppio lavoro? Andato la 7 da dottore Cailo. Non può più parlare con miserabili Radio 24. Dottore, tanto sta a mezzar cazzo. Enzo da Napoli, vai Enzo. Buonasera. Dimmi. Ma tu pensa che caprone deve prendere un vitalizio? Amico mio, che vuoi fare? Caprone, era uno che faceva l'estremista di destra nel movimento sociale una volta, poi è stato condannato. Dovevo darmi alla politica. Che qualità hai tu per darti alla politica? Sì, che qualità hai? Ah, vabbè, figurati, non bisogna averne tante a quanto pare. Dimmi Enzo, dimmi. Allora, niente, io ti parlavo per quanto riguarda la situazione del fascista con l'Ito. Sì, allora? Fascista in costume, niente, in pratica io sono a favore della libertà di pensiero, per amore del cielo va contro i miei ideali, ma comunque sono appunto opinioni. Io mi domando perché se, allora, è giusto chiudere un libro in quanto fascista, se io non sono padrone di poter andare allo stadio. Sì. Con una sciarpa inneggiante, magari Juve merda, oppure una cosa ancora più grave, lasciamo stare magari l'insulto ad una squadra. Ma cosa c'entra? Scusa, sono due cose diverse. No, comunque poi ci puoi andare. Chi te l'ha detto che non ci puoi andare? Puoi fare quello che ti pare. Puoi andare allo stadio a gridare Juve merda, a mettere lo striscione Juve merda, puoi fare quello che vuoi. Non è proibito, mi sembra, no? No, allora ti spiego. Allo stadio San Paolo, dove vado io in quanto tifoso del Napoli, non si può entrare con stemmi inneggianti il periodo neoborbonico. Ma che cazzo dici? Ma chi te l'ha detto? Ma quando mai? E che non gliene frega a nessuno di andare perché tu sei neoborbonico? Sì. Tu hai qualche cosa nella rotaia del cervello che non funziona, però. C'hai le pigne in testa. Cioè, uno come può essere neoborbonico? Neoborbonico. Spiegami come fai? Come si fa a essere neoborbonici? Vabbè, si può discutere, però il fascismo diciamo in qualche modo è anche più recente, no? Cioè, come si fa a essere neoborbonici? Tu vorresti il regno delle due Sicilie, praticamente. I Borboni, ma dai, su Enzo. Ma smettila. Ma lascia bene, tu puoi fare quello che vuoi. Puoi andare allo stadio e dire che sei pastafariano, che sei non lo so, quello che ti pare. Ma figuriamoci se ti impediscono di andare. Ma chi te l'ha detto che ti impediscono di andare con uno striscione? Vengono ritirate fuori dallo stadio. Ma sì, ma perché ti prendono per matto, giustamente non vogliono peggiorare la tua situazione. Ma non sono l'unico, fidati. Ma l'unico che siete quattro gatti neoborbonici, ma di che stiamo parlando? Cioè dicono, vabbè, non lo possiamo far esporre al pubblico ludibrio con questo striscione neoborbonico, glielo togliamo, ma lo fanno per il tuo bene, non ti fanno esporre quello striscione. Non perché rappresenti un pericolo, ma perché lo fanno per il tuo bene. Ma non lo fanno un pericolo per nessuno. Te lo dico io, Enzo, lo fanno per il tuo bene, per non farti ridicolizzare di fronte al mondo intero. Cioè lo fanno per te, per la tua famiglia, per i tuoi conoscenti. Cioè, se scoprono la tua famiglia che tu hai esposto uno striscione inneggiante al regno delle due Sicilie ai Borboni, cioè ti cacciano di casa. Cioè, questo devi capire, che essere neoborbonici è come dire che sei, vabbè, sono della Repubblica Libera di Banana, dello Stato di Bananas, capito? No, è quello che non capisci, cioè quello che non voglio farti capire è che cosa? Non voglio far valere i miei diritti da neoborbonico, eccetera, eccetera, fare da i diritti da neoborbonico. Ma di che parliamo? No, ma rendi da solo pure te, perché sei patetico, sei ridicolo. Ma allora, perché non vuoi capire? Capire? Non voglio fare pubblicità a niente. Allora, ma tu non devi fare. Se tu vai allo stadio, tu dici perché non mi fanno entrare con una striscione neoborbonico? Perché giustamente ti proteggono dal pubblico ludibrio, dalla pubblica piazza, ti proteggono dagli insulti da parte e soprattutto ti proteggono perché a casa ancora forse lo tieni nascosta questa cosa qua. Cioè tu tieni nascosta questa roba perché altrimenti ti caccerebbero di casa. Hai una moglie? No, non credo proprio. Ti caccerebbero a pedate nel culo. Cioè ti caccerebbero a pedate nel culo. Massimo da Treviso, anzi no, andiamo a Trieste, Carlo. Sì, pronto? Dimmi Carlo, dimmi. Senti, Costano, io volevo un po' mettere il mio disappunto inerente alla legge, la nuova legge sulle vaccinazioni. Vabbè, che cosa c'è da dire di nuovo? Ah no, una cosa c'è da dire, che è da due giorni che mi rompono i coglioni chi ha partecipato al raduno sabato contro i vaccini a Pesaro. C'eri pure tu, Carlo? No, no, non ho avuto tempo. No, allora, ecco, giustamente, mi rompono i coglioni da due giorni con miliardi di mail, una specie di mail storming, dicendo nessuno ha dato spazio a questa manifestazione di 40.000 persone. Ragazzi, non funziona così, ognuno sceglie quello che fa, non c'è il grande complotto alla grande cappa di silenzio contro quelli che hanno manifestato contro i vaccini. Va benissimo, avete manifestato, viva la libertà di manifestare, eccetera. Cosa pensate, che ci sarebbe stata l'apertura del TG1? Ma di che parliamo? Fermi lì. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Capito, allora nei paesi islamici alle donne non si trattano bene, ho capito. Invece qua alle ragazzine di 14 anni vengono stuprate da un branco dei bastardi e il paese dice che è tutto normale. Per il sindaco del comune è una bambinata. Crucia, ma ti vergogni un po' o no? Ma di cosa mi dovrei vergognare? Ma di cosa che gli abbiamo fatto un mazzo così a questo qua? Di cosa mi dovrei vergognare? Di cosa? Sono due cose completamente diverse. Tutto va condannato, no? Tutto quello che è violenza va condannato, imbecille. Vabbè ragazzi, allora prendiamo di petto la questione di Sgarbi, che è esplosa nel weekend, con Sgarbi che ha ritrattato la sua confessione di una cosa di cui non capisco cosa ci sia da vergognarsi, perché uno, abbiamo fatto delle domande a Sgarbi, adesso sentiremo tutto, e Sgarbi ha risposto come è andata quella sera con Malena, e lui ha risposto naturalmente, cioè ha risposto in maniera semplice, limpida, senza incertezze, non abbiamo forzato nulla, è stato lui stesso a fare questa confessione. Cosa possiamo fare? Se non voleva rispondere, non rispondeva, diceva no, non mi va di rispondere, sono affari miei, e invece no. Partiamo dall'inizio. Cosa ha detto Sgarbi alla Zanzara venerdì o giovedì, non mi ricordo un cazzo. Alcune ragazze che pensano comunque di fare le spiritose, nel momento in cui si avvicinano al tuo membro, come sì, vogliamo chiamarlo, cominciano a leccarlo come un gelato. Sì. E quindi danno dopo 5 o 6 secondi la misura della loro inadempienza, sì, e della loro pigrizia. Sì. Invece una ragazza che si applica questo bene come un bambino fa col suo succhiotto, sì, per 3 ore e mezza, ah, beh, come capitò nel caso d'esame, fa, sì, la prova di amore, di attenzione, di applicarsi, e occorre sia l'elemento passivo che sono io, sia quello attivo. Io, sì, sono usato l'elemento passivo per una cosa che forse non ha mai fatto, perché nelle sue performance questa cosa potrà durare un quarto d'ora, 20 minuti. Ah, per cui con te è durato 3 ore e mezzo. È stato messo a modo e tenuto in quelle condizioni per circa 3 ore e mezzo. Vai, vai. A proposito, com'è andata l'altra sera con la signora Malena? Beh, tu hai visto l'inizio di quello che poi si è compiuto, insomma. Cioè? C'è un corso di perfezionamento. Le ho dato alcune nozioni che non aveva nella materia in cui lei è specialista. Addirittura? E in che cos'è che non aveva nozioni? Se un uomo di vita e di mondo sta, sì, con una pornostar, sì, può essere che impari o che insegni. In questo caso io ho teso a fare l'una e l'altra cosa, anche a insegnare. Vai, vai con Sgarbone che racconta. E dunque è stata molto soddisfacente la serata, mi sembra, no? Molto soddisfacente, e si è sentita l'applicazione, direi l'amore. C'è stata anche penetrazione? Io non ho capito di che state parlando. Questo è un dettaglio in influenza. Ho perso alcuni passaggi. E scene lesbiche ci sono o no? Ci sono state o no? Beh, questa è una materia di cui non vorrei poi che Parenzo ci dicesse che noi utilizziamo un mezzo pubblico per indicare, però certamente la mia propensione un mezzo alla... pubblico utilizzato pubblico. In questo caso. Noi siamo per pubblico. La formazione della giovane, quindi indirizzarla verso il bene più alto. sono così un teorico. Beh, la cosa dell'altro giorno con la signora Malena, non sì, è... Maria, no. Era per dare a te anche la sensazione di come tu fossi l'escluso. Io è vero, mi hanno escluso. È vero, lo sai, Parenzo. Vuoi arrivare fin davanti alla soglia di questo tempio? Se io, bravo. Tu l'escluso. Io mi sono arrivato lì alla soglia e lui ha chiuso la porta con due donne dentro. Cioè, veramente sono stato cacciato. L'escluso. Allora ragazzi, quello che avete sentito è successo alla Zanzara nella giornata di venerdì, con uno Sgarbi molto tranquillo che ha raccontato la serata, ha descritto quello che è avvenuto, non ha detto c'è stata penetrazione, non c'è stata penetrazione, e vabbè, questo è agli atti, non c'è stato conflitto su questa cosa. Domanda, risposta, domanda, descrizione. All'improvviso, sabato, quando la notizia un po' esce, un po' arriva nel mondo del web, evidentemente non so cosa è successo nella testa di Sgarbone, nella testa del professore, può essere successa qualsiasi cosa, si è irritato, non so, non me ne frega, sinceramente non me ne frega un cazzo, gli voglio bene lo stesso. Ha cominciato a dire le seguenti cose, sentiamo. Il mondo è pieno di gente malata che non riesce a sentire l'amore ed è curiosa di quello che non può fare o non vuole fare. E così tu sei tranquillo che giri l'Italia, parli di Romanino, guardi la luce, il sole, l'Oriente e pensi all'amore. E questi ti interrogano su cosa hai fatto nella tua attività sessuale e che cazzo gliene frega a loro. Proprio di Parenzo nella Zanzara e scandalizzarsi di tutto. E proprio di quell'altro, poveretto e temerario, essere curioso solo di quello che fanno gli altri. Ma fatti i cazzi tuoi. Ma pensa alle scopate tue. E allora una sera tu sei a Garda, davanti a un lago bellissimo, c'è una povera e gentile pornostar, timida perfino, che racconta perché ha fatto quella scelta. È una ragazza molto strana, eccentrica, che non vuol sentir dire che una donna mostri il suo corpo per la lussuria degli altri e che, come giusto sia, l'amore è una cosa riservata per sé, ognuno per sé. Poi arriva Cruciani, il quale non vive per sé, e si interroga di dove tu sei finito, dove sei andato. Tu sei andato a vedere ville, case, palazzi, e lui è escluso, lui è l'escluso dall'amore, dal piacere, dal senso. Allora viene e guarda e occhieggia, e un giorno dopo ti chiama e dice: e com'è andata? Non è andata, ti ho preso per il culo. Devo fare l'elogio di Malena, che ha giustamente taciuto, perché Malena è andata tranquillamente a dormire nel suo albergo e tu hai creduto che potesse aver fatto qualunque cosa, qualunque turbamento, il pompino algerino, 3 ore e mezzo di succhiata di cazzo e tutto quello che piace a te, Cruciani. Ma quello che è accaduto tu non lo saprai mai, quello che non è accaduto è forse più bello di quello che è accaduto. E la povera Malena messa in mezzo e silenziosa, usata, e non da me, perché quello che ti ho raccontato l'ho raccontato soltanto per la tua masturbazione, perché tu potessi godere di quello che non fai. E su questo il racconto, tutta Italia che si preoccupa dei pompini di Sgarbi e Malena che tace, questa santa donna, una pornostar che andrà beatificata, che non si compiace, non racconto, sono stato con Sgarbi, sono io che ho preso per il culo te e ho forse mortificato lei. Tutto quello che ho detto non era vero, era il sogno perché tu potessi eccitarti. Sfigato Cruciani, l'escluso. Allora, questo Sgarbi, voglio dire a Sgarbi una cosa, che in fondo la storia è fatta di racconti, l'uomo è fatto di racconti. Sgarbi è uno straordinario raccontatore, uno straordinario comunicatore, come Mille e una notte, come Ulisse, Boccaccio. È un uomo, è l'uomo che racconta la storia a un altro uomo. Questa è l'essenza della vita. Noi viviamo di racconti e anche di racconti erotici. e non è importante che siano veri, che siano falsi, nessuno li può sapere tranne i protagonisti naturalmente. E poi le parole sono di per sé una menzogna, esistono sempre le menzogne, e se uno nega una storia, però a quel punto la storia, che è l'essenza della vita, a prescindere dal fatto che sia vera o no, cioè la storia è il racconto di un uomo a un altro uomo, di una storia, è l'essenza della vita, e se uno poi nega, diventa sì lui una capra, lui diventa una capra. Ti abbraccio, Vittorio. Allora, abbiamo qui però Malena, la signora Malena, ciao, ciao grande. Ciao, buonasera. Ciao tesoro, tesoro, come ciao. Stai? Come stai? Bene, allora, bene, sono allora, a casa nella mia Bari. Oh, meno male. Quando è che torni a Budapest? Ad agosto, fine agosto. Ma lavoro ad agosto. Con l'Academy. Abbiamo l'Academy. Insomma, L'Academy. I ragazzi vanno istruiti. Ma come? Già sei diventata una professoressa da questo, cioè dopo così poco tempo? Rocco mi ha promosso a professoressa e vicepresidente dell'Academy, quindi evidentemente le performance sono state all'altezza, mi sembra, no? Che dici? Che lascio dici? Giudicare a chi guarda. Sì, guardiamo, ragazzi, io ho guardato tutti i film, insomma, gli spezzoni adesso. Vabbè, senti Malena, vogliamo qui risolvere una questione molto semplice. Allora, io ho assistito ad una scena, come tu sai, eccetera, poi Vittorio l'ha un po' raccontata, cioè sì. Voi vi siete chiusi dentro quella stanza. Ora, che tipo di rapporto c'è stato tra di voi? Se si può dire, se si può raccontare, ma tu sei abituata a dire sempre la verità, perché ma dovresti mentire? Ma io sono abituata sempre a dire la verità. La cosa che mi dispiace è che si vada a pensare che una ragazza come me, siccome faccia, diciamo, la pornostar di lavoro, possa poi per forza concludere con un rapporto fisico. No. Quindi io penso, no, ma è ma così. Chi l'ha detto? Però uno no, entra. No. Quindi cioè, tutti pensano che è facile scoparti, questo è il punto, no? Ma appunto, invece, cioè, Vittorio è un grandissimo amico, l'ho conosciuto quella sera, una persona. Poi di vi siete cultura, chiusi, però vi siete chiusi. No, non ci siamo chiusi da nessuna parte. Beh, come no? Dentro una stanza no, insieme. Beh, come no? È quello che ho visto sono io, è quello. Accompagnata a casa tranquillamente, assolutamente no. E poi comunque penso. Sì. Che io faccio un lavoro che, diciamo, appunto è aperto sì. al pubblico. Poi, diciamo, la vita privata è la vita privata, insomma. No, ma questo non c'è, questo non c'è dubbio. Però lui tranquillamente ha raccontato che tra di voi c'è stato del sesso orale. No, questo ha raccontato. Voleva scherzare. Beh, il racconto era abbastanza dettagliato, Il racconto era dettagliato. Ma no, anche no, con un no. tocco lesbico. È anche con un tocco anche lesbico. Immaginare. È anche bello immaginare. Ma infatti uno poteva lasciare. L'amore platonico è più eccitante dell'amore però, fisico, sì. Alcune volte. Per carità, non voglio fare adesso il. Come dire, per forza il guardone, il curioso, non me ne frega assolutamente nulla di quello che avete fatto dentro quella stanza. Però io ho visto che cosa? Ho visto una porta che si chiudeva, un signore praticamente senza la camicia e due ragazze che si preparavano a dormire. Adesso, no, se uno vuole raccontare. Il signore senza camicia. Beh, il signore senza camicia, il signore da sgabbio, ho visto con i miei occhi. Ora, se uno poi vuole. No. Questo è successo. Adesso tu mi dici che a un certo punto nottetempo sei andata a casa. Cara no, Maria. No, come siete andati via tutti, sono andata via anch'io. Dopo, assolutamente. Dopo però. Dopo ma però. No, io ho dormito nella mia tranquilla camera d'albergo. Vabbè. Che mi è stata offerta. Per carità. A me dispiace soltanto che si vada a che pensare. Cosa? Che questo, che siccome io faccio questo lavoro. Ma chi allora l'ha detto? Ma chi l'ha mai pensato? Chi l'ha mai pensato? Ma sì, perché uno dice, lei fa la pornostar e Vittorio magari le ha fatto vedere, non so, un quadro, qualcosa, no, no. La villa e pensa che ci sia stato per forza qualcosa di fisico. Assolutamente no. E a questo punto devo riprendere anche la frase chi? del mio compagno Isolano, che sono pure fatti miei, insomma. No, ma quello va bene, quello sono sicuramente fatti tuoi, cioè, però lui ha raccontato quella storia lì, non è che l'abbiamo spinto noi a raccontare quella storia. Lui ha raccontato quella storia, dopodiché... Ma non è che uno, allora, a mio parere nessuno ha scherzato, però va benissimo, per carità, se tu mi dici che non c'è stato nulla, non ci sarà stato nulla, no, questa è la tua versione. No, ma assolutamente, l'ho nemmeno detto, con quella ragazza che era lì. Affascinante, insomma, ci si resta affascinati, insomma, dei suoi discorsi. Sicuramente una è uno che è andato a fare in camera, che si è entrato a fare in quella camera, così per ridere, per scherzare. Io ero in un salotto come erano tutti gli altri, c'era il soggetto, c'era anche il figlio del soggetto, c'era tanta gente, non c'ero soltanto io. Gli altri sono andati a casa, in albergo, anche sono andata in albergo. Ti abbraccio, un bacio. Un bacio. Ciao, cara. Ciao. Ciro, provincia di Siena, vai, Ciro. Oh, ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolta, niente, volevo entrare nel merito dello stabilimento balneare di Chioggia, no? Dimmi. Niente, tu l'hai messo folklore, non c'è niente di male, no? Ma ragazzi, l'avete sentito o no? Ma quello è da anni che esponeva le stesse cose. Sì, ma da è sbagliato, anni. Giuseppe, è ma sbagliato. Cosa è sbagliato? Ma tutto può essere sbagliato. Pure le bandiere comuniste che garriscono, uguali. Il comunismo ha fatto morti allo stesso modo. Allora, se volete fare una legge per apologia di comunisti di fascismo, che già c'è peraltro, ma chi ha detto che sei comunista? Fate pure una legge sull'apologia del comunismo, è la stessa cosa, stessi morti. Comunque adesso non stiamo parlando di quello, ma stiamo parlando di questo, no? Di questo che c'aveva, che c'ha le foto di Mussolini e tutte le frasi. Ma tanta gente ha le foto di Mussolini. Dietro al fascismo ci sono dei drammi, degli omicidi, famiglie disgregate. Il fascismo ha aperto delle ferite in Italia. È roba finita. Ma nel 2017 dobbiamo tenere ancora Mussolini in un locale pubblico. Pubblico Mussolini, se uno non gli va di vedere quelle cose, se ne va. Secondo me, io volevo semplicemente dire che secondo me quel signore è un ignorante, è un coglioncino. Ti vuoi tenere i civili del fascismo? Tieteli in casa tua, vabbè, ma non in un locale pubblico. Ciao tesoro. Ciao. A demain, ragazzi. Ci vediamo domani. Ciao. L'escluso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Mantecato di merda.